America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. Ieri la Federal Reserve ha detto che lascerà invariati i suoi interventi sul mercato, dunque è lecito immaginare che forse dovrei aprire su questa notizia, che dal punto di vista economico è stata quella che ha dominato ieri un po' i mercati. In realtà, secondo me, quella notizia di cui parleremo è meno importante di un'altra notizia, di un avvenimento che partirà oggi a Washington, e vorrei cominciare col farvi sentire la voce di questa signora. America is open for business. That's the message we're sending with the United States' first ever investment summit. Penny Pritzker, segretario al commercio americano, che annuncia per la giornata di oggi e per la giornata di domani un evento straordinario, sicuramente dal punto di vista della dimensione, ma certamente nuovo, perché non era mai successo che il Dipartimento al Commercio organizzasse un summit per attirare investimenti stranieri diretti negli Stati Uniti. Il titolo del summit è Select USA, dunque selezionate l'America per i vostri investimenti. E la signora Penny Pritzker, segretario al commercio, appunto, ce l'ha messa tutta, ci ha messo anche il prestigio della sua famiglia, del nome della sua famiglia. Thank you to the entire Pritzker family for your friendship and incredible generosity towards so many causes. Barack Obama, che rende omaggio alla Pritzker Family, una grande famiglia di Chicago, una famiglia che ha un conglomerato industriale di servizi, pensate, controlla la catena degli Hyatt, controlla la Superior Bank di Chicago, controlla la Royal Caribbean. La famiglia ha un valore complessivo stimato in 19,6 miliardi di dollari e Penny è uno dei membri più importanti della famiglia. Aveva fatto amicizia con Barack Obama molti anni fa, aveva aiutato Barack Obama nella sua campagna finanziandogli soprattutto quella che era stata la struttura digitale, elettronica. La signora Pritzker a un certo punto sembrava essere stata messa da parte da Barack Obama, quando il presidente l'ha ripescata e le ha dato un incarico molto prestigioso, quello appunto di segretario al commercio. Qual è la missione che la signora Pritzker, con questo suo bagaglio di prestigio personale da una parte e di straordinari mezzi dall'altra, quindi è una donna d'affari, qual è l'obiettivo, dicevo, che vuole perseguire? Quello di rettificare quello che è un fenomeno preoccupante per gli Stati Uniti, una diminuzione degli investimenti diretti in America. Ed è questa la prima novità, perché un evento di questo genere non c'era mai stato, e quindi il fatto che gli Stati Uniti cerchino di attirare investimenti diretti, che se lo ricordate, io spesso parlo da questo microfono del tentativo che facciamo di attirare investimenti diretti dall'America per l'Italia. Il nostro presidente del Consiglio Enrico Letta, ma prima di lui Mario Monti, insomma, fanno delle loro missioni un veicolo per cercare di attirare investimenti diretti. Devo dire, mi preoccupa un pochino se anche gli Stati Uniti si mettono in corsa in modo così diretto. Perché hanno deciso di farlo? Perché l'amministrazione Obama ha deciso di farlo? Perché nel 2008, ironicamente, poi era l'anno della grande crisi, quindi prima che esplodesse la grande crisi, gli Stati Uniti, pensate, hanno attirato 310 miliardi di dollari di investimenti diretti nel loro paese. Dopodiché una piccola diminuzione, nel 2011 si è scesi a 226 miliardi di dollari, da 310 a 226, quindi diciamo una caduta piuttosto forte. Nel 2012 addirittura il valore degli investimenti diretti negli Stati Uniti è precipitato a 167 miliardi di dollari. C'è anche un altro fattore che interviene. Pensate che nel 2000 gli investimenti esteri, diretti esteri degli Stati Uniti, rappresentavano il 37% degli investimenti mondiali. Ebbene, l'anno scorso sono scesi al 17%. Il mondo sta cambiando, la ragione di questo cambiamento è da ricercarsi nel ruolo molto più forte, marcato, della Cina, dell'India, paesi straordinariamente attivi. E dunque la signora ha deciso di convocare questa conferenza. Ci saranno 1200 partecipanti, ci saranno i rappresentanti di 47 stati americani, ci saranno 680 partecipanti stranieri, fra questi finalisti ci saranno 31 partecipanti italiani. Perché vi racconto questa storia? Perché secondo me è dimostrativo di quello che sta capitando. Non basta venire in America e chiedere agli americani di investire in Italia. Bisogna organizzare, come ha fatto l'America, un summit, un vertice, dove gli investitori stranieri vengono in massa in Italia e gli si fa vedere quello che si può fare. Gli si presentano le diverse regioni, è inutile spacchettare, fare una volta la regione Lombardia, l'altra volta la regione Campania e così via, così via. Devo dire che l'America ci dimostra una volta di più che è in grado di fare uno sforzo corale per attirare questi investimenti stranieri. Dunque, per me, quello che succederà più tardi, fra un'ora, due ore, a Washington, è molto più importante di quello che è stato il comunicato della Federal Reserve. Lo riassumo brevemente. La Fed dice, in queste condizioni noi continueremo ad acquistare sul mercato 85 miliardi di dollari al mese di strumenti monetari in titoli del tesoro e in titoli a garanzia di mutui immobiliari. Dunque, non è cambiato nulla. Il mercato dava per scontato che questo sarebbe stato il tenore del comunicato e perciò vi lascio più con una riflessione su come possiamo fare qualcosa di diverso per attirare i nostri investimenti, ovviamente le riforme prima di tutto, che su una politica della Fed che ormai tutti conosciamo e in qualche modo per qualche mese, almeno fino a gennaio, febbraio, marzo, dobbiamo dare per scontata. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, scrivetemi su Twitter @MarioPlatero ed eccoci alla canzone del giorno. Stevie Wonder, 8 anni di silenzio, sta per lanciare addirittura due nuovi album, When the World Began e 10 Billion Hearts, usciranno nel 2014 ed è sull'onda di questa notizia che di Stevie Wonder vi propongo un altro classico immortale, I Just Call to Say I Love You. No New Year's Day to celebrate, no chocolate cup. Da New York è tutto, Simone ti ripasso la linea, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!